Essere e benessere. E adesso voglio parlarvi di una bella esperienza. Gli animali, i cani, entrano in corsia. Succede in un ospedale milanese, l'ospedale Buzzi, un centro d'eccellenza, quattro zampe in aiuto dei bambini ricoverati. Ne parliamo con la dottoressa Elena Garoni, medico veterinario dell'associazione Spazio per Noi. Buongiorno dottoressa Garoni. Buongiorno a voi. Dottoressa, ci racconta come è nato questo progetto, che possiamo definire un progetto di pet therapy? Sì, è un progetto di pet therapy abbastanza inusuale, soprattutto straordinario, perché si lavora in reparto di terapia intensiva ed è nato su iniziativa del primario della terapia intensiva dell'ospedale Buzzi, la dottoressa Ida Salvo, e dal dottor Maurizio Bernoni, che è medico anestesista e responsabile del progetto Ospedale Senza Dolore, proprio per diminuire gli stati di sofferenza dei bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Quindi è un progetto che nasce dalla collaborazione di più persone che affrontano il problema da diversi punti di vista, organizzativo, ma anche di gestione, di cura, di terapia, e naturalmente arrivano anche i volontari e anche gli esperti che aiutano questa integrazione tra cane e animale, che funziona, sembra. Sì, funziona, sicuramente funziona. Dobbiamo partire proprio dagli obiettivi che ci hanno posto questi nostri colleghi medici, perché gli obiettivi sono di mutare anche per breve periodo le emozioni prevalenti nei bambini e nei familiari ricoverati in terapia intensiva, perché ricordiamoci che l'ospedale Buzzi è un ospedale pediatrico con degli ospiti quindi anche molto piccoli, ma sempre accompagnati dalle famiglie. Certo. Che accudiscono questi bambini anche 24 ore su 24, per magari brevi giorni, 5-6 giorni, e poi vengono cambiano di reparto oppure tornano a casa, ma passano 24 ore in questi ospedali soverchiati spesso da emozioni molto negative. Possiamo sicuramente immaginare, dottoressa Garoni, voi lavorate, e uso il termine lavoro non a caso, con due cani. Sì, vengono coinvolti due cani per volta, diciamo così. Noi lavoriamo il lunedì pomeriggio e siamo molto attesi dai ragazzini che ci aspettano, e vengono coinvolti quindi due cani. Di solito cerchiamo di combinare la scelta tra un animale, un cane di media taglia e uno piccolo, perché la cosa è che spesso questi bambini hanno dei deficit cognitivi o anche sensoriali, quindi sono spesso sordi e ciechi, i bambini ricoverati, quindi hanno bisogno di un cane che si avvicini molto a loro. Quindi abbiamo il permesso e l'invito a salire sui letti dei piccoli degenti e avvicinarci proprio facendo toccare i cani a questi bambini per stimolarli dal punto di vista sensoriale e scaturire queste emozioni positive. Dottoressa Garoni, è inutile sottolineare, ma lo facciamo, che si tratta di animali che sono assolutamente preparati, controllati, e quindi non sono animali improvvisati, che si improvvisano. Certamente in nessun progetto di pet therapy, anche il più semplice, deve esserci mai improvvisazione, soprattutto per quanto riguarda la preparazione degli animali. Anche assolutamente, e anche degli accompagnatori. Anche dottoressa, prima di salutarle, si ricorda un momento di questo progetto in cui un bambino le ha raccontato qualche cosa e ha capito che questo era un progetto che faceva davvero bene alle emozioni dei bambini? Sì, ricordo l'ultima ragazza che abbiamo visto, che si chiama Andrea, è una ragazza sordo cieca che si è, diciamo, risvegliata da uno stato piuttosto depresso delle sue emozioni e ha si è mossa, ha fatto dei movimenti verso il cane. Questo per noi è molto importante, perché dal punto di vista emotivo la voglia, il desiderio di cambiare il proprio stato è fondamentale poi per la guarigione, comunque per un ritrovamento della salute. Grazie, dottoressa Garoni, io la ringrazio per essere stata con noi e buona giornata. Essere e benessere.